La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. In occasione delle lezioni di storia in 10 appuntamenti il Novecento a Milano, iniziativa che ha preso avvio presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie lo scorso 21 aprile, per 10 lezioni settimanali fino al 30 giugno 2010, l'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato agli anni di passaggio tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento in Italia, tema della prima lezione che è stata tenuta dalla professoressa Simona Collarizzi, docente di storia contemporanea all'Università di Roma La Sapienza. La parola adesso va a Dino Pesole. Dalle cannonate sulla folla di Bava Beccaris nel 1898 alla rivoluzione futurista, dalle origini del fascismo all'inaugurazione della Triennale, per arrivare poi alla rinascita del dopoguerra, al boom economico fino alla cosiddetta Milano da bere e della TV commerciale degli anni 80 del Novecento, fino al tramonto della Prima Repubblica, passando per la stagione tragica della strategia della tensione. È un vero e proprio viaggio nella storia di Milano e nei principali eventi che hanno visto protagonista Milano in oltre un secolo, quello che ci viene proposto dall'iniziativa Lezioni di Storia in 10 appuntamenti, il Novecento a Milano. Iniziativa che ha preso avvio presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie lo scorso 21 aprile, 10 lezioni settimanali fino al 30 giugno introdotte da Chiara Continisio. Nel primo appuntamento è stata affrontato il periodo tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento. Il 6 maggio 1898, in una città in cui domina il malcontento per l'aumento del prezzo del pane, la distribuzione illegale di un volantino socialista scatena un intervento repressivo della polizia. Scoppia la protesta operaia. Per 4 giorni, Milano diviene scenario di una rivolta che sconvolge anche il cuore della città borghese, la Galleria e Piazza del Duomo. Si elevano barricate. Il governo dichiara lo stato d'assedio, vengono chiusi i giornali e le organizzazioni dei repubblicani, dei socialisti e dei cattolici intransigenti. L'esercito, agli ordini del generale Bava Beccaris, spara sulla folla con i cannoni. Tutto sembra annunciare una svolta autoritaria, ma in Parlamento le forze della sinistra socialista in crescita in città riescono ad opporvisi. Un ruolo determinante per impedire che la rivolta di Milano degenerasse in quegli anni in una svolta autoritaria lo ebbe il Corriere della Sera, testata storica di Milano, e l'opinione pubblica borghese illuminata che in quel giornale si riconosceva. Il Corriere è diretto da Luigi Albertini, una voce destinata a diventare anno dopo anno sempre più autorevole nella città e nell'intera nazione. Nato il 5 marzo 1876, nel periodo finale dei governi della destra, cresciuto con alterna fortuna fra le diffidenze al colonialismo di Crispi e le simpatie iniziali per Pellù, il Corriere della Sera acquista nel periodo un ruolo di primissimo piano. È Luigi Albertini a guidare il Corriere della Sera su posizioni liberali e a farne un grande quotidiano di statura europea. Interprete e continuatore delle idealità etico-politiche della destra storica, Albertini punta a rinnovarne la matrice cavuriana con la tradizione moderata del sistema di governo inglese. Fautore di un governo chiuso a rossi e neri, Albertini imprime alla sua opposizione nei confronti dell'esperimento riformista giolittiano toni e dimensioni di un urto frontale, di un contrasto profondo e radicale. Albertini condanna in modo netto le caute aperture di Giolitti verso i socialisti riformisti ed esprime al tempo stesso un'aperta diffidenza contro ogni tentativo di recupero dei cattolici in nome di un anticlericalismo espresso nel nome della salvaguardia del principio della laicità dello Stato. L'alternativa di Albertini al giolittismo, immiserito a suo giudizio dalla mancanza di idealità morali e compromesso dai cedimenti demagogici verso le opposizioni, era un governo forte e profondamente morale di ottimati che hanno nella vita pubblica una concezione superiore. Abbiamo in linea la professoressa Simona Colarizzi, che è docente di storia contemporanea all'Università di Roma La Sapienza, che ha tenuto la prima lezione a Milano lo scorso 21 aprile proprio sugli anni di passaggio tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Professoressa, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Lei ha approfondito quegli anni che furono decisivi per la storia del nostro paese. Cominciamo appunto da quel che accadde nel 1898 con le famose cannonate di Bava Beccaris sulla folla. Come mai si decise di reagire in modo così violento contro una protesta che forse tutto sommato si poteva gestire anche diversamente? A mio giudizio si decide, diciamo, questa linea repressiva così sanguinosa, perché a Milano i morti sono più di 500 e innumerevoli feriti, perché si ha paura, cioè la classe dirigente di fine secolo ha paura della nuova società di massa, ha paura del conflitto e non sa come governarlo questo conflitto. La classe dirigente di fine secolo rispetto a classi dirigenti di stati liberali più maturi, civilmente più maturi, politicamente più maturi e già avviati su un percorso di democrazia, scontano la paura che viene da uno stato ancora molto fragile. L'unità d'Italia è appena avvenuta, sono passati 20 anni, insomma, e quindi le istituzioni sono fragili e la classe dirigente italiana non si sente ancora pienamente legittimata, sia dal fatto che gran parte della popolazione, la maggioranza della popolazione, non ha ancora l'accesso al voto. Però la società di massa è una società che è piena di fermenti, in cui si cominciano a esserci organizzazioni, i socialisti per esempio, i cattolici per esempio, la cui lealtà nei confronti del nuovo Stato è messa in discussione. E quindi la classe dirigente, direi che forse la chiave di lettura delle cannonate di Bava Beccaris, e comunque di una repressione che avviene in tutta Italia, i moti per il pane che sono diffusi ovunque, nasca soprattutto dalla paura e dalla incertezza di come si governa una società di massa. Nei primi anni del Novecento, professoressa, come sappiamo, ha inizio questo esperimento che è appunto il decennio giolittiano, sostanzialmente, che porterà anche delle innovazioni dal punto di vista politico. Noi abbiamo raccontato poc'anzi ai nostri ascoltatori che uno dei protagonisti di quegli anni fu Luigi Albertini e il Corriere della Sera, che Albertini diresse per molti anni. Albertini però fu decisamente contrario a questo esperimento giolittiano, cioè sia l'apertura verso i socialisti sia la diffidenza verso i cattolici. In che modo, secondo lei, Albertini riuscì in qualche modo poi a influenzare l'opinione pubblica e anche l'intelligenza in quegli anni? Potrebbe sembrare una contraddizione, perché Albertini, per esempio, durante la crisi di fine secolo, cioè che è un po' simboleggiata dalla repressione di Bava Beccaris, è contrario alla repressione sanguinosa, non la vuole. Eppure appunto Albertini è un liberale, si può considerare un liberale moderato, ma è anche l'esponente di una borghesia lombarda in ascesa, che è molto progressista da un punto di vista appunto di allargamento delle basi di massa del consenso ai governi. Questo però non significava per Albertini, cioè c'era un limite in Albertini, il limite invalicabile per Albertini era il no alle forze cosiddette anticostituzionali, e queste forze anticostituzionali erano i socialisti e anche i cattolici, in quanto pesava ovviamente ancora nell'Italia dei primi anni del secolo la semilealtà, se non addirittura la slealtà delle masse cattoliche, divise fra una fedeltà al Papa che ha scomunicato Vittorio Emanuele II, che non riconosce il Regno d'Italia, e il desiderio di inserirsi, di entrare, di essere cittadini del nuovo Stato. Quindi la sua diffidenza nei confronti delle masse cattoliche si spiega sotto questo profilo, le masse cattoliche come le masse che non hanno voluto il Risorgimento, che non hanno voluto l'unità d'Italia e che continuano, secondo Albertini, a congiurare contro l'unità d'Italia. Nei confronti dei socialisti c'è il discorso di un socialismo che Albertini non individua come un socialismo nazionale, cioè anche le masse socialiste come sleali alla Costituzione. Si deve partire un po' da questa doppia faccia di Albertini, che crede che sia importante andare verso le masse, cioè crede che invece della repressione bisogna iniziare una politica di riforme politiche, riforme sociali. Sì. È convinto che bisogna anticipare i fermenti che possano nascere in un mondo del lavoro che è un mondo del lavoro in fermento, ed è anche convinto che capitale e lavoro dovrebbero fra di loro collaborare. In questo senso ha tutta la mentalità della borghesia imprenditoriale lombarda. Anche lui è un grande imprenditore, anche lui sta costruendo la prima grande industria culturale. Professoressa, la ringraziamo molto. Grazie a voi.